te, dimmi perché. Ci stringi fiori all'altare, credendoci essere un uomo più forte. Se la tua bella giacca, ma chiudimi.